zitto, lascia ch'io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo. Sicuro. E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle? No, no, voglio ammazzarlo. Vo farlo in 100 brani. Hai buone armi? Cospetto. Ho pria questo moschetto e poi questa pistola. E poi? Non basta? Basta certo. Or prendi! Questo per la pistola, questo per il moschetto. Tuoci o t'uccido, questo per ammazzarlo, questo per farlo a brani. Villano mascalzon, ceffo da cani. Ai, ai, la testa mia, ai, ai, le spalle, il petto. Di sentirmi corre la voce di Mazzetto. Odio, Zerlina, Zerlina mia, soccorso. Cos'è stato? L'inizio incelerato, mi ruppe l'ossa ai nervi. Oh, poveretto me, chi? Leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui. Crudel, il dolce disio, che con questa tu pazza gelosia il ridereste a qualche brutto passo. Dove ti duole? Qui. E poi? Qui. E ancora. Qui. E poi non ti duole altro? E dormi un poco questa pie, questo braccio e questa mano. E via via, allora è gran male se il resto è sano. Vinte nemica a casa, purché tu mi prometta d'essere nel geloso. Io ti guarirò, caro il mio sposo. Oh, molte facce il lume s'avvicina, mio ben. Siamo qui un po' finché da noi si scosta. Ma che di mi adorato, mio scuso? Nulla, nulla, certo i guardi vo' vedere se il lume c'è lontano. Ah, come da costei liberarmi? Rimanti, anima bella. No, non lasciarmi. Sulla, sulla, in buio loco, palpitar il cor mi sento, ma sol un tal spavento che mi sembra di morir, e mi sembra di morir. Io che cerco, men ritrovo, questa porta sciagurata. Piano, piano, l'ho trovata, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir. Leporello, figliame maestro, Quell'arte di qua. Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni ne sia l'empio uccisore del padre di Don Anna. In questa casa, per poche ore, fermatevi, un ricorso lo farà chi si deve, e in pochi istanti vendicarvi prometto. Così vuole dover pietare affetto. Lasciala cercare. Che bella notte. è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. È tardi, o ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finita l'affar fra le porelle e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio, Elfin vuole che faccia un precipizio. E adesso, oh, leporello! Chi mi chiama? Non conosci il padrone? Oh, sì, non conoscessi? Come birbo! Ah, siete voi, scusate! Che cos'è stato? Egacion vostra fu quasi accoppato! Ebbene, non era questo un onore per te? Signor Veldono! Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir! Ma cosa fate qua? Vien presso e lo saprai! Di tante storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar. Donne scalcerto? Ve dubbio. Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la man, fuggir mi vuole. Dico poche parole, ella mi prende, sai per chi? Non lo so. Per leporello. Per me? Per te. Va bene. Per la mano, e se allora mi prende ancora meglio. Ma carezza, ma abbraccia, caro il mio leporello, leporello mio caro. Allora compresi che era qualche tua bella. Oh, maledetto, dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida, sento gente fuggire, mi metto, e pronto pronto per quel muretto in questo loco io monto. E mi dite la cosa con tale indifferenza? Perché no? Ma se fosse costei stata mia moglie, meglio ancora. Che anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo? Paci sciocco! Chi va là? Chi va là? Qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è quella la statua? Leggi un poco quell'iscrizio. Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna. Leggi, dico. Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Odis, io tremo. Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cenar meco. Che pazzia, ma mi par. O dei mirate, che terribile occhiate gli ci dà. Par vivo, par che senta e che voglia parlar. Or su va là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco. Pian piano, signore, ora ubbidisco. Statua gentilissima del gran commendatore, patron, mi trema il cuore, non posso terminar. Finiscila, o nel petto ti metto questa ciar. Che picio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento pigellar, non voglio far levar. Statua gentilissima, benché di marmo siate, a patron, patron mio, mirate, che seguita a guardar, fuori, no, attendete. Signor, il patron mio, non io vorria con voi cenar Bala che sei un buffone, bala che sei un buffone, un buffone, un buffone. Guardate, guardate, guardate un combattone. E che deggio guardate, deggio guardate, deggio guardate. Con la malmoria pensa. E fa così, così. Andiamo via di qua, andiamo via di qua, via di qua.